L'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddei e benvenuti all'Altra Europa. Siamo in diretta dagli studi di Milano di Radio 24 con il nostro appuntamento settimanale dedicato all'Europa, un programma in collaborazione con il network Euronet Plus, network di radio europee che danno tante voci, tante suggestioni sulla nostra Europa. Euronet Plus è presente tutti i giorni qui a Radio 24 col GR Europa con tanti appuntamenti, reportage, un modo per esserci in Europa ed esserci da protagonisti, raccontando notizie, raccontando l'attualità, raccontando storie, raccontando persone. Potete seguirci sulle nostre piazze virtuali, gli account sono i miei personali, Federico Taddei, sia su Facebook sia su Twitter, Bacheche, che aggiorniamo minuto per minuto con tutti i link relativi agli argomenti che andiamo a toccare. Ogni settimana un viaggio, oggi partiamo da un'intervista molto particolare fatta a Strasburgo, nel cuore del Parlamento europeo. Ciao, sono Enrico e vengo dall'Italia. Considering the European crisis, I think they are very brave. Hola, soy Virginia Payá y vengo de España. I am Georgina Tanasiu and I come from Cyprus. We are the Facebook winners here to interview Martin Schulz. Sono gli studenti che hanno vinto questo particolare concorso lanciato dal Parlamento europeo su Facebook in 200 caratteri. Bisognava dire cosa si voleva chiedere al presidente, si sono proposti, sono stati scelti e hanno incontrato Martin Schulz. Erano in tre, uno di loro italiano. Diamo il benvenuto ad Enrico Santus, 26enne, originario di Inglesias, laureato in linguistica computazionale all'Università di Pisa. Ciao Enrico. Buongiorno. Buongiorno a te. Ciao Federico. Cosa facciamo? Partiamo dalla gaffe della giacca che non hai indossato andando a incontrare Schulz, o facciamo un inizio un po' più istituzionale e ci racconti i contenuti del tuo interno? No, partiamo da quello, dai, quello è stato bello. Come si vede nel video che poi avete mandato in onda. Sì, l'abbiamo pubblicato anche su Facebook, su Twitter per chi lo volesse vedere, però esatto, questo era l'audio della tua intervista. Dimmi, cosa è successo? Esattamente, no, prima di incontrare Schulz abbiamo fatto un giro per il Parlamento europeo, poi c'era una plenaria molto lunga per cui lui è arrivato parecchio in ritardo e parecchio stanco, con un mal di schiena tremendo. E prima di intervistarlo mi chiedevano cosa vuoi sapere di Martin Schulz principalmente. Io gli ho detto che vorrei conoscere anche com'è come persona, perché quando si ha a che fare con questi personaggi così importanti poi certe volte si deve... relazionare con persone arroganti. Sì. Invece no, Martin Schulz mi ha felicemente sorpreso, perché quando siamo arrivati è stato subito molto cordiale, poi poco più tardi, quando insomma ce ne stavamo andando, io ho dimenticato la giacca nel suo ufficio, lui l'ha presa, è venuto dietro e mi ha aiutato a indossarla. Mm-hmm. Perché insomma io sono rimasto veramente pietrificato e non sapevo neanche come reagire. E quando siamo andati a fare la foto, 5 secondi più tardi, un po' per l'emozione, un po' per una cosa, per l'altra, mi sono tolto nuovamente la giacca che lui mi aveva appena aiutato a indossare, insomma. Quindi sì, la gaffe c'è stata ed ero anche abbastanza assente nel momento della fotografia, come si può notare. Enrico, ma come mai sei stato scelto tu per questa intervista? Cosa avevi proposto nel concorso? Allora, nel concorso ho proposto una sorta di giornalismo democratico, se vogliamo chiamarlo così, nel senso che nei miei 200 caratteri avevo detto che non avrei chiesto domande che interessavano personalmente me, ma che invece potevano essere di interesse comune. E quindi ho aperto una pagina Facebook in cui la gente poteva proporre le proprie domande, ne sono arrivate una dozzina, una quindicina, insomma, e poi da lì ho dovuto fare semplicemente una scala di priorità per poi chiederle a Martin Schulz in tempi ristretti. Sulla home page del sito dell'Università di Pisa si può leggere la tua intervista, insomma, un po' il reportage legato a questa giornata. Qual è stata la domanda che più ti ha dato soddisfazione o qual è stata la risposta che più ti ha colpito? Ma devo dire, la prima che ho fatto io, penso, è stata quella che è piaciuta, penso anche a lui è piaciuta parecchio, lo dice esplicitamente. Sì. praticamente gli ho chiesto se la crescita dei movimenti anti-europeisti dipenda principalmente dal fatto, dalle scelte che sono state prese dall'Europa sull'austerity, oppure dal fatto che in Europa ci sia un deficit democratico. E, insomma, lui mi ha risposto molto attentamente, molto precisamente, mi ha detto che più o meno tutte e due le cose erano vere, nel senso che l'austerity sicuramente non è una scelta popolare, poi dall'altro canto l'Europa non lavora molto sui contenuti, quindi permette a queste forze esterne di dire tutto va male, tutto va male. Lui dice no, bisogna recuperare terreno sui contenuti e creare una battaglia interna tra le due forze, tra le due tendenze più forti, che sono quella pro-austerity e quella contro-austerity, in maniera tale da togliere terreno certo. al disfatismo degli anti-europeisti. Enrico, visto che al volo, sfuggendo un po' al controllo forse anche del suo ufficio stampa, hai fatto una domanda secca anche sul Datagate e c'è stata una sua risposta altrettanto secca. Sì, assolutamente. Sul Datagate gli chiedevo appunto quali potessero, se eravamo vittime o anche complici, e lui mi ha detto assolutamente siamo vittime. Praticamente poi mi diceva che pretende assolutamente, questo è accaduto la settimana scorsa, quindi penso che da allora qualcosa si sia aggiornato, però lui pretendeva assolutamente spiegazioni da Washington, perché diceva noi non organizziamo nessun attentato terroristico, vogliamo sapere perché ci hanno trattato, noi che siamo i migliori amici dell'America ci trattano come i peggiori nemici, quindi voglio sapere le motivazioni che gli hanno spinti a ciò. E dopodiché in appendice ho chiesto anche se c'era la possibilità di dare l'asilo politico a Snowden, sì. Anche lui non si è preso nessuna responsabilità, mi ha detto sono sicuro che ci sarà qualche stato che gliela darà. Questo indossandoti, facendoti indossare la giacca, te l'ha detto. Esatto. Indossare la giacca. Enrico Santus, grazie davvero, ricordiamolo sul sito dell'Università di Pisa, l'intervista, oppure sulle nostre pagine Facebook e Twitter, fra pochissimo troverete tutti i link. Grazie Enrico, complimenti e in bocca al lupo, so che ti aspetta una esperienza studentesca importante, sei in partenza per la Cina, se non erro, per Hong Kong. Per Hong Kong. Sì. Perfetto. Grazie mille a voi. Ciao, buona giornata. Erasmus Song, create, cantate dai ragazzi dell'Erasmus Student Network della provincia di Messina. Questa settimana il progetto Erasmus ha festeggiato un importante traguardo ed è il traguardo del 3 milionesimo studente, quindi 3 milioni di studenti in Europa che nei 26 anni di vita di questo progetto, nato nel 1987, hanno vissuto questa esperienza di mobilità universitaria. Sul sito del Sole 24 Ore, sole24ore.com, ha scritto di questo il collega Eugenio Bruno, giornalista del Sole 24 Ore, che è qua con noi. Ciao Eugenio. Ciao Federico. Ciao, buongiorno. Buongiorno a te. Prima di questa chiacchierata ci siamo sentiti un attimo con Eugenio e gli ho chiesto: ma tu l'hai fatto l'Erasmus? No, vero Eugenio? Purtroppo no, tornando indietro lo rifarei. Come? E infatti questo rammarico che ci unisce, perché anch'io sinceramente non durante gli anni di università non ho colto la palla al balzo ed è un rimorso, ma va bene, lo stiamo rivivendo grazie a tantissimi studenti, però raccontando le loro storie, le loro esperienze, i loro incontri. Poi è un progetto che è maturato proprio anche come consapevolezza negli anni, no? Ai nostri tempi forse era una sorta di quasi di gita fuori porta, adesso invece è proprio un'esperienza di vita, un'esperienza di studio, è un primo passo verso la costruzione di una propria professionalità. Ma tornando a noi, Eugenio, hai raccontato un po' questo compleanno, che significato ha? Il significato che cresce la consapevolezza negli studenti, più in quelli europei ancora che in quelli italiani, che fare un'esperienza all'estero è formativa non solo per il percorso di studi ma anche poi per l'esperienza di lavoro successiva. Sono 3 milioni, come dicevi tu, quelli che in 26 anni hanno fatto questa esperienza, e l'anno scorso sono stati oltre 250.000, quindi sono cresciuti quasi del 10% rispetto all'anno prima. Quindi, oltre al dato complessivo, è interessante anche la tendenza, una delle poche tendenze, diciamo, in Europa che è cresciuta con continuità negli ultimi anni. Con numeri importanti, sono 33 i paesi coinvolti, ci sono anche delle preferenze sia in termini di sedi universitarie che di città. L'Università di Bologna, per esempio, è una delle più amate dagli studenti di tutta Europa, leggevo. Sì, non siamo messi male da questo punto di vista, perché Bologna è terza dopo Granada e Madrid, però nelle prime 10 ci sono anche la Sapienza di Roma e l'Università di Padova, che sono ottava e nona. L'altro dato forse che balza agli occhi, se mi permetti, è che anche che sono di più gli studenti che scelgono l'Italia, forse attratti anche dalla nostra tradizione, la nostra bellezza, di quelli che partono, perché l'anno scorso sono arrivati 23.000 studenti stranieri e sono andati all'estero 20.000 studenti italiani. Ecco, forse questo è ancora uno è un altro gap che dovremmo provare a colmare. Certo, e come ogni celebrazione è un momento per guardarsi indietro, ma è soprattutto un momento per guardare avanti. Cosa succederà al programma Erasmus, che nei mesi scorsi anche insomma, è stato al centro di paure, perché sembrava non ci fossero più i fondi per finanziare questo importante programma, invece dal 2014? Dal 2014 i fondi a livello complessivo dovrebbero aumentare del 40% per i prossimi 7 anni. L'accordo politico a livello di Commissione, Parlamento, Consiglio europeo sembra essere stato raggiunto e quindi il budget per il periodo 2014-2020 dovrebbe essere di 14 miliardi e mezzo, con un altro vantaggio forse, che nascerà un maxi programma Erasmus che si chiamerà Erasmus for All, che metterà insieme, oltre l'Erasmus tradizionale, anche una serie di programmi, di piccoli programmi, e quindi forse permetterà anche un accesso più semplificato ai fondi e anche riuscirà a soddisfare un maggior numero di domande. Poi stanno nascendo tante cose, abbiamo parlato più volte dell'Erasmus per gli imprenditori, adesso c'è anche l'Erasmus per gli agricoltori, manca l'Erasmus per giornalisti, Eugenio, partiresti? Sì, ci permetterebbe anche di non avere più rimpianti. È vero, di recuperare quello che non abbiamo vissuto. Grazie davvero ad Eugenio Bruno per questo contributo e, che dire, buon compleanno Erasmus. Ciao Eugenio, buona giornata. Buongiorno a tutti, ciao. Buona giornata. Europostit. Un concorso per immortalare l'Europa nella tua regione. In questi anni l'Europa è arrivata nella tua regione finanziando progetti ed iniziative. Qualcuno di questi progetti ti sta particolarmente a cuore? Oppure pensi che abbia incentivato particolarmente lo sviluppo locale della tua comunità? Fotografalo e partecipa al concorso L'Europa nella mia regione, organizzato dalla Commissione europea proprio per valorizzare gli interventi rivolti alle comunità locali. I vincitori saranno scelti da una giuria popolare e da una giuria composta da fotografi professionisti ed esperti in comunicazione. I vincitori saranno scelti da una giuria popolare e da una giuria composta da fotografi professionisti ed esperti in comunicazione. In palio ci sono 1.000 euro in apparecchiature fotografiche e un viaggio a Bruxelles a ottobre. Per partecipare c'è tempo fino al 23 agosto. Tutte le informazioni sono sulla pagina Facebook della Commissione europea, facebook.com/European Commission, cercando Europe in My Region. Migliaia di persone in Europa sono vittime di una dipendenza. Una dipendenza che ha ripercussioni non solo sulla loro salute, ma anche sul loro portafoglio. Una dipendenza irragionevole che sembra difficile da superare. Non riescono a rinunciare all'automobile nemmeno per tragitti estremamente brevi. Eppure non dobbiamo rinunciare del tutto alla nostra auto. Sarebbe sufficiente liberarsi dell'abitudine di usarla automaticamente. L'idea essenziale quello che state ascoltando è l'audio di una campagna legata all'edizione di Do the Right Mix. Che cos'è? È un progetto, è un progetto di mobilità, è un progetto di idee. La Commissione europea ha appena pubblicato l'elenco dei vincitori dell'edizione 2013. Sono 18 progetti per la mobilità sostenibile in città, si va dai corsi di bicicletta ai genitori tassisti, tantissime iniziative che poi vengono finanziate, o meglio microfinanziate, perché l'idea è quella di dare fondi non esagerati, però molto, molto mirati. Un progetto molto importante per capire come funziona, per capire cosa sta accadendo e come se la sta giocando anche l'Italia. Abbiamo invitato Carla Travagnin, che è responsabile delle relazioni istituzionali di Mostra, l'agenzia belga che lavora per la Commissione europea sul progetto Do the Right Mix. Ciao Carla, benvenuta all'Altra Europa. Ciao, buongiorno. Okay. Sì, insomma, tu puoi ben spiegarci. Noi abbiamo conosciuto il progetto grazie alla pubblicazione dei vincitori. Che cos'è Do the Right Mix? Beh, Do the Right Mix è una campagna di comunicazione che cerca di cambiare le abitudini dei cittadini europei. È divisa in tre parti. Quindi una parte, quella che abbiamo iniziato a sentire prima con la voce del cartone animato che stiamo diffondendo adesso, poi ci sono i vincitori, questi 18 vincitori, e poi c'è anche un premio che va alle autorità locali. Se vuoi io posso iniziare a parlare dei 18 vincitori. Sì, adesso non tutti, ma ovviamente però sì, se ci puoi fare una carrellata per capire anche quella che è la creatività legata alla mobilità sostenibile, alla mobilità urbana. Sì, come hai detto tu, vincono un micro premio, cioè un rimborso spese di 7.000 euro l'uno. La campagna è iniziata nel 2012, dal 2012 abbiamo raccolto centinaia di piccole iniziative locali che cercano di insegnare ai cittadini europei a muoversi in città in maniera alternativa. E l'ultima carrellata di vincitori sono appunto 18, hanno portato a casa 7.000 euro ciascuno e le iniziative sono varie e molto creative. I progetti vincono appunto per l'originalità, la creatività, l'impatto sulla cittadinanza e la potenzialità di essere replicati in altri paesi, sì, oltre che per la serietà organizzativa. Uh-huh. Io volevo iniziare da un'iniziativa che conosco, che è belga, sì, un'associazione di ciclisti di Bruxelles insegna ai ragazzi che entrano nel mondo del lavoro a andare in ufficio in bicicletta. Quindi a ogni nuovo impiegato viene assegnato un tutor che analizza il percorso più breve, più sicuro e spiega ai giovani dipendenti che entrano nelle varie aziende come andare a lavoro in bicicletta. Questa è una cosa che ha fatto una ragazza che ha iniziato a lavorare da noi qualche tempo fa ed è molto, molto contenta. C'est un joyeux cycliste qui prenait le départ, le premier sur la piste, il était jamais en retard, les yeux sur le starter. Buon sabato da Federico Taddia, questa è sempre l'Altra Europa. Mi trovate su Facebook, su Twitter, lì link agli argomenti che andiamo a toccare. Adesso è la bicicletta che ci sta accompagnando a conoscere questo concorso, questo progetto Do the Right Mix, il giusto mix di mobilità, non muoversi solo a piedi, non muoversi solo con i mezzi, la contaminazione tra quello che è il servizio pubblico e l'auto privata. 18 idee che hanno vinto il concorso. Siamo insieme a Carla Travagnin, che conosce molto bene il progetto perché ci lavora attraverso la sua agenzia in Belgio, Mostra. Carla, ci presenti un altro paio di progetti? Sì, prima ho parlato di un progetto belga di tutoring per insegnare ai giovani impiegati ad andare in bicicletta. Una cosa simile è stata fatta a Vienna, in Austria, dove un'altra associazione di ciclisti ha insegnato ad andare a scuola a gruppi di bambini accompagnati dai genitori. E anche lì grande attenzione al rispetto delle norme stradali, la sicurezza, eccetera. bicicletta ancora a Girona, in Spagna. Questa volta il tema dell'iniziativa è la bici è sexy, quindi hanno organizzato un concorso fotografico dove tutte quante le persone potevano mandare la foto di loro stessi in bici ma vestiti bene, perché per andare in bici non è necessario essere intabarrati. E poi hanno organizzato una sfilata di moda in bicicletta per le vie di Girona. Per dire che la bicicletta è un mezzo di trasporto, insomma, anche abbastanza cool, per portare l'attenzione su un cambio di tanto di abitudine, ma anche di atteggiamento nel confronto del trasporto urbano. Certo, di cultura. Dooderidemix.eu, il sito ufficiale, sta partendo la campagna anche per la prossima edizione, anche con l'Italia coinvolta, se non ho capito male, giusto? Sì. Allora, in realtà gli italiani non possono partecipare a questo micro finanziamento di 7.000 euro, noi non possiamo partecipare come associazioni italiane, possiamo partecipare a altre cose di cui parlerò tra poco, ma l'Italia non può partecipare perché è stata identificata dalla Commissione europea come un paese dove valeva la pena fare una vera campagna di comunicazione. E quindi adesso, con l'aiuto di un gruppo di lavoro italiano molto, molto importante, molto istituzionale, abbiamo studiato una campagna proprio specifica per gli italiani, che ruota intorno all'inizio di Cartone Animato che avete detto prima. Ecco, invece ci hai accennato prima di salutarci appunto a quali sono invece altri settori del concorso e del progetto a cui si può partecipare, e quali sono? Sì, il premio SAMP, quindi Sustainable Urban Mobility Action Plan. Le aziende locali, le municipalità, i comuni possono da settembre presentare dei piani di mobilità urbana e vincere 10.000 euro. Perfetto, insomma ci prendiamo l'impegno di tornarci a settembre, così ne parliamo bene, diamo tutte le coordinate del caso. Con piacere. Grazie a Carlo, oggi vai a fare un giro in bicicletta? Brava, coerente. Assolutamente. Grazie a Carla Travanini, ciao e buon sabato. Ciao. Grazie a voi, ciao. Europost-it. La capitale verde del futuro può essere la tua città? La vostra città investe sull'ambiente, su posti di lavoro, turismo e progetti legati al miglioramento delle condizioni ambientali? Allora potrebbe candidarsi a Capitale Verde Europea per l'anno 2016. Il premio assegnato a città all'avanguardia nel proporre modalità di vita urbana rispettose dell'ambiente. Le candidature saranno valutate in base ad alcuni parametri, tra cui i sistemi di mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi, il trasporto locale, l'uso sostenibile del territorio nelle aree verdi urbane, la qualità dell'aria, la gestione dei rifiuti, delle risorse idriche. Il premio è aperto ai 27 Stati membri dell'Unione Europea, ai Paesi in via di adesione, ai Paesi candidati e quelli dello Spazio Economico Europeo. Per decidere chi vincerà, ci sarà un team di esperti da tutto il mondo e la scadenza per presentare le adesioni è il 17 ottobre 2013. Per candidarsi e saperne di più, europeangreencapital.eu. Oh signore dell'universo, ascolta questo figlio disperso che ha perso il filo e che non sa dov'è e che non sa neanche più parlare con te. Ho un Cristo che pende sopra il mio cuscino e un Buddha sereno sopra il comodino. Conosco a memoria il cantico delle creature, grandissimo rispetto per le mille sure del Corano. C'ho pure un talismano. Usiamo le parole di Jovanotti per entrare nel tema dell'integrazione che funziona. È stata presentata questa settimana una piattaforma web per scoprire appunto l'integrazione e le buone pratiche legate all'incontro tra culture, tra popoli diversi. 7 paesi sotto osservazione per un anno per tentare di definire uno standard europeo. Il progetto si chiama Elin, ce lo racconta la coordinatrice, la dottoressa Daniela Carrillo. Buongiorno Daniela, benvenuta all'Altra Europa. Buongiorno a voi, grazie. Che cos'è questo progetto EMIL lanciato da ISMU, iniziative e studi sulla multietnicità? E le referenze sono altre, c'è anche la collaborazione con il Ministro degli Interni ed è finanziato grazie a FEI, Fondo Europeo Dedicato all'Integrazione. Sì, il progetto nasce da un finanziamento europeo, come ha detto lei, che poi è stato veicolato dal Ministero dell'Interno ed è nato con l'idea di attuare questo scambio di buone pratiche di cui l'Europa parla tantissimo. L'Europa è diversificata e l'integrazione, noi parliamo di integrazione dei migranti, l'integrazione dei migranti si gioca a livello locale. Allora l'Europa sostiene attraverso i suoi documenti, l'agenda sull'integrazione e altro, di fare questo scambio di buone pratiche. La nostra equipe, che lavora da anni ormai, è quasi un ventennio che l'ISMU lavora sull'integrazione, la nostra equipe sostiene che in realtà lo scambio di buone pratiche non possa avvenire in maniera assolutamente tout court, non si può prendere una pratica che funziona bene a Milano e impiantarla a Tenerife, per esempio, sì, per farvi un'idea dei paesi che abbiamo contattato, certo, ma piuttosto ci sono degli elementi che funzionano nella pratica che possono essere trasferiti e così implementare la pratica e farla più rispondente a quello che serve. Mm-hmm. E per questa ragione abbiamo fatto questa piattaforma, come lei ha detto, una piattaforma che fa sì che ci sia questo strumento, che poi in realtà è uno, all'esterno sembra soltanto un questionario, nel quale si mettono dentro, si rispondono alle domande su come è organizzata la pratica, però allo stesso tempo si risponde alle domande su come è organizzato il contesto, perché abbiamo messo 7 paesi che erano veramente diversi. Abbiamo messo Bratislava, che la Repubblica di Slovacchia sta diventando adesso paese di immigrazione, e abbiamo messo la grandissima Germania, poi abbiamo messo il Belgio, abbiamo messo l'Irlanda, che ha un'immigrazione tutta fatta dai skills, abbiamo messo l'Italia, nell'Italia abbiamo preso Milano, ma abbiamo preso e la regione Lombardia, abbiamo preso la regione Campania, abbiamo preso la regione Umbria, insomma tutte realtà molto diverse e i contesti sono naturalmente molto diversi. Allora abbiamo cercato di dire, ma il contesto e la parte soprattutto istituzionale e legale quanto aiuta le pratiche di integrazione? E per questo abbiamo fatto questa cosa che può essere vista sul sito, attribuiamo un punteggio alla pratica, attribuiamo un punteggio al contesto e da questo punteggio che chi carica la propria pratica riceve si può capire se risponde effettivamente a quanto la Commissione Europea dice attraverso i moduli per l'integrazione e quali sono gli elementi che si possono prendere da un'altra parte e metterli dentro e quali sono gli elementi del contesto che andrebbero rivisti. L'idea è proprio quella di costruire un luogo online, un luogo virtuale nel quale però permettere questi scambi in questa Europa 27 così diversa. Esatto, perché non vuole essere solo una vetrina di valutazione, diciamo, ma vuole essere proprio una vetrina da cui prendere stimoli, da cui prendere esempio, da cui capire quali sono gli aspetti più interessanti o le intuizioni anche più divergenti che possono poi essere replicabili o riadattate alla propria realtà, al proprio contesto. È uno strumento solo per addetti ai lavori o può interessare anche noi semplici cittadini? In realtà nasce come uno strumento per addetti ai lavori, però sono tanti gli addetti ai lavori, sono anche le ONG gli addetti ai lavori, sono quelli che lavorano all'interno delle istituzioni. Può interessare i semplici cittadini nel momento in cui vogliono capire che cos'è che funziona e come si realizza l'integrazione, per esempio. Che cos'è che secondo l'Europa e poi nella realtà quello che i migranti dovrebbero fare e quello che noi dovremmo fare affinché costruiamo questa società multietnica di cui stiamo tutti parlando e che faticosamente stiamo raggiungendo. Penso che possa essere interessante un po' per tutti. Ok, quali sono quindi i 12 mesi di tempo? Cosa vi aspettate al termine del progetto? Di avere una fotografia reale, una fotografia che possa essere poi amplificata negli anni successivi? Sì, in realtà sì. Il progetto è finito praticamente adesso, stiamo riproponendo una seconda versione perché vogliamo farlo in maniera più approfondita sulle realtà cittadine, speriamo di essere rifinanziati dalla Commissione Europea, l'abbiamo portato ovviamente, l'abbiamo fatto conoscere anche alle istituzioni europee o rifinanziato dall'Italia stessa, non sappiamo, però l'idea è quella di allargare un po' gli ambiti di intervento e di interesse. La prossima edizione vorremmo farla sulla partecipazione attiva dei cittadini stranieri nelle nostre città, proprio nell'ottica di costruire questa nuova Europa. Perfetto, ricordiamo l'indirizzo che è ismo.org/emil con la doppia sì. L, perfetto. Sì. Grazie davvero, complimenti e insomma in bocca al lupo per tutta per la vostra attività. Grazie. Grazie a voi, grazie davvero. Alfred Changanisha. Alfred Changanisha. Kilikilam tu alumadi friend. Alfred Changanisha. Quante volte qui all'Altra Europa abbiamo detto che una cultura comune, uno spirito comune lo si può e lo si deve fare, sì, attraverso le leggi, attraverso i progetti, attraverso i programmi, ma alla fine ciò che fa la differenza, ciò che fa la vera integrazione, ciò che fa il vero incontro sono le storie, sono le persone. La storia che andiamo a scoprire ora è una storia intrecciata, perché sono coinvolte le istituzioni, è coinvolta la fantasia, perché si parla anche di un romanzo, ma sono coinvolte tante persone, persone vere, persone reali, e le trame che disegnano le loro vite. Lei si chiama Raffaella Greco Tune Gutti, è consulente della Commissione Europea per i temi di migrazioni e diritti umani, è una esperta esterna ed è l'autrice del romanzo L'Espagnole, Editori Internazionali Riuniti, un libro che è uscito pochi mesi fa, uno di quei libri che racconta la realtà così com'è la si è toccata con mano. Ciao Raffaella, benvenuta all'Altra Europa. Ciao Federico, grazie. Tu hai scelto un romanzo per raccontare vite vere, per parlare di migranti di ieri e di oggi. Quali sono le tue fonti? Da dove nasce la tua esperienza? L'Espagnola è un'esperienza di ascolto, prima di tutto. Come dicevi, lavoro ormai da più di 10 anni come consulente della Commissione Europea, occupandomi di migrazioni, di politiche migratorie, di accoglienza, di diritti dei migranti, e quindi ho avuto la fortuna di intrecciare moltissime donne, di ascoltare le loro vite, le loro storie, di osservare le loro intense e bellissime esistenze, anche a volte in situazioni molto drammatiche, ma sempre con una grande intensità e con una grande capacità di reinventarsi, di sopravvivere, di resistere. E quindi dopo anni a scriverne in modo, diciamo, più scientifico-tecnico, ho proprio sentito che bisognava scegliere un altro linguaggio, trovare un'altra chiave, trovare davvero un linguaggio poetico che arrivasse allo stomaco, che arrivasse alla pancia e che mi permettesse di funzionare non solo come esperta tecnica dentro i palazzi delle istituzioni, ma come megafono che facesse proprio sentire senza ombra di pietismo e senza ombra di razzismo, ma proprio nella bellezza del reale, l'esistenza di queste storie, di queste vite. Qual è la voce dei migranti oggi? Tu hai usato bellissime immagini, la poesia, arrivare alla pancia, arrivare con storie che si portano dietro, speranze e disperazioni. Però se uno ti chiedesse cos'è la migrazione oggi per l'Europa, cosa risponderesti? È una domanda difficilissima, perché noi europei tendiamo sempre a considerare la migrazione, specialmente in questi ultimi anni in cui, se pensiamo noi italiani, l'immagine dei migranti africani che arrivano sui barconi a Lampedusa è certamente quella dominante, tendiamo sempre a pensare la migrazione come l'altro che arriva da noi. Facciamo molta fatica a pensare che invece contemporaneamente, non tornando ai nostri nonni, ai nostri bisnonni, ma contemporaneamente c'è una migrazione di migranti che si spostano tra un paese africano e l'altro, di europei che si spostano da un paese europeo all'altro e di europei che si spostano in paesi extraeuropei, a volte, per ironia della sorte, ex colonie africane, come nel caso di tanti portoghesi che, visto la durezza della crisi in Portogallo, hanno cominciato negli ultimi anni ad affluire in decine di migliaia in Brasile, in Angola e in Mozambico, nei paesi emergenti, no? Per cui la migrazione, ti risponderei, è uno stato dell'anima, è uno spostarsi a cercare il meglio, che è il meglio come condizioni economiche, che è il meglio come condizioni di vita, che è il meglio come sogno, che è il meglio come amore, che è il meglio come famiglia, no? Quindi un ricongiungimento, una fuga, una ricerca, un interesse, un sogno. Ed è, credo, proprio con queste parole qui, con la ricerca e con il sogno, che dobbiamo imparare o reimparare a considerarla e a vederla e a vederci come tutti migranti. Tu hai vissuto questa esperienza anche di ricerca orale tra le mogli di minatori italiani, spagnoli, marocchini e turchi trapiantati in Belgio, il Belgio che ha il cuore d'Europa, il Belgio che ha tanto da dire sul tema della migrazione. Moltissimo, e parlo da migrante in Belgio perché quando sono in Europa sono a Bruxelles, se non sono in qualche paese africano, quindi sono io stessa, no? Una migrante di lusso certamente, di nuova generazione in terra belga, in terra brussellese. Il Belgio ci parla di una storia molto complicata e multistrato, ci parla di migrazioni cominciate alla metà dell'Ottocento, se pensiamo anche solo all'Italia, di moltissimi minatori che fino alla metà del secolo scorso, quindi fino al secondo dopoguerra, sono stati venduti praticamente a cottimo dai nostri paesi, dall'Italia, dalla Spagna, dal Portogallo, dalla Turchia, per andare a lavorare nelle miniere, per andare a lavorare nelle fabbriche, e i paesi ricevevano indietro le royalties, no? Per chilo di carbone tirato fuori dai nostri minatori che andavano. Oggi assistiamo a migrazioni diverse, ma non per questo sostanzialmente differenti. La migrazione si porta con sé un bagaglio di solitudine, un bagaglio di ricerca di mettere radice, un bagaglio di straniamento e di difficoltà del vivere altrove, che caratterizza davvero tutti i tipi e tutti i migranti, tutte le tipologie di migrazione e tutti i migranti. Il Belgio, Bruxelles diciamo più che il Belgio, no? La mamma Europa, la grande capitale di questa unione, di questo insieme, rappresenta benissimo questo multistrato, queste differenti strati di migrazione, differenti storie, differenti esperienze, differenti spinte alla migrazione, però molto accomunate tra di loro appunto da questi fattori del cercare di ricreare rete, cercare di rimettere radice, cercare di ricostruire un piccolo sé, un piccolo ambiente che abbia senso rispetto alla propria provenienza, quindi alla propria cultura, alla propria identità, che dentro l'espagnol, io cerco di dire, non diventa perno per radicalizzare una differenza, ma diventa ponte e possibile apertura di dialogo con l'altro, che nel caso di Bruxelles molto spesso è un altro europeo, mm-hmm. È un italiano che incontra un turco, che incontra un fiammingo, che incontra un francese, o se apriamo un po' più gli occhi è un maliano che incontra un asiatico, che incontra uno spagnolo, che incontra un brasiliano. Raffaella, abbiamo aperto l'intervista ascoltando questo brano musicale che adesso abbiamo come sottofondo. Che cos'è? Ce lo vuoi presentare tu? È un regalo che mi ha fatto Saba Anglana, una meravigliosa cantante italo-somala che, pur cantando in Italia e in Europa per la maggior parte del tempo, porta con sé la sua radice africana e ce la porta mescolata a tutto quel che d'italiano c'è in lei, lei che in Italia ha passato la maggior parte degli anni della sua vita, e che mi ha fatto il bellissimo regalo di scrivere la prefazione all'Espagnol, tre intense pagine che parlano di donne, di migrazione, di spostamenti, di difficoltà, ma anche di una grande capacità, di una grande tenacia di trovare il senso del proprio essere anche in un altrove che non spesso e che non sempre ti accoglie. L'altra Europa, in collaborazione con Euronet Plus.